Allora, Trattato di Sukkah, appunto, capitolo 5, la Mishnah inizia con la parola Hechalil. Il Chalil sarebbe uno strumento musicale che si identifica più che altro con il flauto, anche se non è esattamente, credo, lo stesso dello flauto moderno. C'è una canzone in sbagliato. Il flauto si usava, per il flauto si intende in generale gli strumenti musicali per il festeggiamento di, come vedremo, Simchat Bet HaShoeva. Come abbiamo già spiegato in un trattato precedente, durante ogni sera di Sukkot si faceva una grande festa e verso l'alba ci si avviava fuori dalle mura di Gerusalemme, verso la fonte, la sorgente del Shiloah. Si attingeva l'acqua, e come abbiamo descritto, in un contenitore d'oro. Cos'è Shiloh? Shiloah è il nome È il della nome di un sorgente. fiume. Non è un fiume, è proprio una fonte, Che c'è tuttora? se che c'è tuttora assolutamente. E si portava quest'acqua all'interno del Bet HaMikdash perché serviva per la funzione mattutina, il tamid della mattina, dove sempre tutto l'anno c'è una libagione di vino sul Mizbeach che accompagna il Korban, il sacrificio. Durante la festa di Sukkot, oltre a quella di vino, c'è una libagione d'acqua. Abbiamo un po' approfondito questa cosa prima, ma era preceduta questa cosa da una grandissima simcha. Per quale motivo? Perché c'era tutto questa grande addirittura festa che si faceva, e si descriverà poi più avanti come si faceva questa festa, perché la mitzvah della libagione dell'acqua non è una mitzvah esplicita nella Torah, è una mitzvah che è stata trasmessa oralmente sin dai tempi di Moshe Rabbeinu, ma non esplicitata nella Torah, è solamente allusa nella Torah. E quando si arrivò ad un certo punto nella storia alla formazione di un gruppo che molti sanno si chiamano i Sadducei, e cioè coloro che volevano ritenere il potere, erano delle famiglie importanti di Coanim, e il potere era sempre più ritenuto dai saggi, dai maestri, allora un modo in questa ribellione era di non più riconoscere l'autorevolezza e l'autorità dei saggi e dire: noi ci teniamo solo alla parola scritta della Torah e non ci importa la vostra interpretazione. E allora, facendo così, si eliminavano tante cose, inclusa la libagione d'acqua che non è esplicita nella Torah. Allora i maestri hanno istituito questa grande simcha per dimostrare che si fa questa mitzvah, non solo si fa, ma si mette grandissima enfasi e si fa tutta una gioia di Sukkot legata a, proprio si chiama e nominata per questa mitzvah, Simchat Bet HaShoeva, la gioia dell'attingere l'acqua. E, diciamo, per escludere le idee di chi voleva diciamo così, eliminare, diciamo così, le tradizioni ebraiche che non sono esplicite nella Torah. Allora la Mishnah dice: Hechalil chamisha v'shisha. Hechalil, cioè questa festa fatta con gli strumenti musicali, poteva essere a Sukkot o per 5 giorni o per 6 giorni. Perché? Perché la Mishnah spiega: Zeu HaChalil shel Bet HaShoeva, è un riferimento al Chalil, alla musica che avveniva per appunto il Bet HaShoeva, per l'attingere l'acqua. E Sheino Dohe lo et HaShabbat ve lo et Yom Tov. Quando è Shabbat o Moed, non si faceva questa festa con la musica, perché usare gli strumenti musicali per questa festa non è una cosa che respinge la mitzvah dello Shabbat o del Moed, quando normalmente non si usano gli strumenti musicali. Quindi può essere o per 5 o per 6 giorni. Perché? Perché tutti i giorni di Sukkot sono 7. Il primo giorno di Sukkot è Moed, quindi escluso quel giorno, e già diventano 6 i giorni della festa dello strumento musicale. Se il primo giorno dovesse essere anche Shabbat, allora rimangono 6 giorni, perché Shabbat e Moed sono insieme. Se invece il secondo, il terzo giorno o un altro giorno è Shabbat, allora diventano 5 il primo giorno di Moed e il giorno di Shabbat, che si escludono entrambi i giorni. Ora la Mishnah commenta sulla festa stessa. Ammeru, dissero: Kol mi shelora Simchat Beit HaShoevah, qualsiasi persona che non ha visto in sua vita la gioia che avveniva al momento del festeggiamento della Beit HaShoevah, lo ra'a Simcha Beyamav. Non ha mai visto una festa nella sua vita. Cioè, in questa maniera la Mishnah esprime quanto era grande la gioia e la festività che si faceva in quella occasione. E ora la Mishnah, nella Mishnah Bet, seconda Mishnah, descriverà come avvenivano i preparativi per questa festa. Bemotza'e Yom Tov, Harishon Shel Chag, quando usciva il primo giorno di Moed, quindi la sera che finiva il primo giorno di Moed e diventava Chol HaMoed, Yardu le'ezrat Nashim, si scendeva, i Kohanim e i Leviim scendevano perché c'erano dei gradini da scendere nel Bet HaMikdash, dal luogo normalmente dove avvengono le funzioni, verso un luogo del Bet HaMikdash un po' più esterno, che si chiamava Ezrat Nashim, la zona delle donne. In realtà non era una zona dedicata solo alle donne. Ora vedremo perché si chiamava così. Ha assunto questo nome proprio per qualcosa che facevano per queste serate. Cosa facevano? Un metaknin sham tikkun gadol. E facevano lì un grande tikkun. Per tikkun, riparazione letteralmente, ma quello che si intende qua è che facevano una modifica strutturale per quelle sere. Qual era la modifica strutturale? La Gemara lo spiega, la Mishnah non lo esplicita, ma nel Talmud lo vediamo la spiegazione, ovvero che, visto che era una grande festa dove c'era un grande flusso di persone, sia uomini che donne, e i maestri non volevano che si mischiassero tra uomini e donne in questa festa, per evitare che diventi una festa di frivolezza, ok? Che doveva essere una festa di Kedushah e di lode ad Akadosh Baruch Hu, allora fecero questo grande cosiddetto tikkun, questa grande modifica, in quanto costruirono un matroneo. Per queste sere costruivano con del legno, intorno a questa grande sala, un matroneo tutto intorno, in modo tale che le donne possano essere sul piano superiore e gli uomini sul piano sottostante. E da qui è la prima fonte di quello che in molti templi esiste nelle sinagoghe, il matroneo. Nella stessa maniera è presa da questo tikkun originale che si faceva nel Beit HaMikdash in occasione della festa di Sukkot, in occasione della Simchat Beit HaShoevah. Ok? Poi, per l'illuminazione, perché avveniva la notte questa festa, normalmente nel Beit HaMikdash non c'era nessuno di notte. La funzione del Beit HaMikdash inizia all'alba e conclude al tramonto normalmente. Poi la notte è chiuso. Questa è l'unica volta che invece c'è qualcosa che avviene di notte al Beit HaMikdash. Oltre alla sera di Kippur, che il Kohen Gadol rimaneva sveglio tutta la sera e studiava, ma era una cosa limitata a poche persone. Qui invece c'era un grande afflusso di migliaia di persone all'interno del Beit HaMikdash di notte. Cosa si faceva per l'illuminazione? Non era predisposto per essere illuminato di notte. Tra l'altro, questa zona che si chiama Ezrat Nashim è scoperta, non c'è un tetto sopra, quindi è all'aperto. È rinchiusa perché fa parte della struttura del Beit HaMikdash, ci sono le mura intorno, ma è totalmente aperta in alto. Quindi come si faceva per l'illuminazione? Spiega la Mishnah. Un menorot shel zahav yusham. Vi erano lì, quindi portavano appositamente dei candelabri d'oro. E ora vediamo che tipo di candelabri. Ve'arba'a sefalim shel zahav berashehem. In cima a ogni candelabro, che bisogna pensare più a un palo dell'illuminazione stradale che a un candelabro, perché uno pensa al candelabro, metti sul tavolo, no? Ora vediamo. Su ognuno dei candelabri in cima c'erano quattro contenitori per contenere dell'olio, ok? E ognuno dei candelabri aveva appoggiato ve'arba'a sulla mot, le kolechad ve'echad. Sulam, vi ricordate la parola Sulam dal sogno di Yaakov? La scala. Quattro scale appoggiate ai quattro candelabri per salire e versarci l'olio nei quattro contenitori per uno. Ve'arba'a yeladim mipirchei kehuna, quattro ragazzi dei giovani Kohanim, significa giovani Kohanim vuol dire prima che rientrassero nel servizio vero e proprio del sacerdozio della Kehuna all'interno del Beit HaMikdash, ma si preparavano per farlo. Loro cosa facevano? Ubidehem, nelle loro mani, avevano kadim shel shemen, dei contenitori di olio. E, quanto era? Quanto olio avevano? Mea vesrim log, 120 log. 120 log è per tutti e quattro insieme, significa 30 log per ognuno dei quattro ragazzi, che 30 log sono circa 15 litri, quindi 15 litri d'olio per ogni candelabro. E loro versavano quest'olio, salivano la scala e mettevano l'olio nei quattro contenitori per candelabro. Shen Matilin Kol Sefel Vesefel. Ora, gli stoppini, la Mishnah dedica un paragrafo agli stoppini. E ora vediamo che c'è una motivazione. Da cosa venivano preparati gli stoppini? Mi belaei michnesei kohanim, un mehem yanehen, da i calzoni e le cinte ufficiali dei Kohanim che usavano quando facevano il servizio della Keunah, che se questi indumenti fossero già diventati, non era più possibile usarli per il molto uso, quindi sono diventati consumati, logorati, allora li mettevano da parte, non si possono buttare perché sono legati alla Kedushah della funzione del Beit HaMikdash. Li mettevano da parte e da questi, Mehen Hayum Mafki'in, da questi facevano gli stoppini. Preparavano gli stoppini per questa occasione. Ubahen Hayum Madlikin. E con questi stoppini appunto accendevano questi candelabri. E la Mishnah dice quanta illuminazione poteva esserci attraverso questi 4x4 candelabri che mettevano in questo locale molto grande. La Mishnah lo esprime in questa maniera. Velo hayetah hatzer, non vi era un cortile Birushalayim, nella città di Gerusalemme, Sheinam me ira me or beta shoeva, che non era illuminata dalla luce e illuminazione del beta shoeva. Cioè, il Beta Shoeva dove si trova? All'interno del Beit HaMikdash. Il Beit HaMikdash è il punto più alto di Gerusalemme, il monte del Tempio. Non devi pensare alla città di Beitar che c'è oggi. Gerusalemme antica, non è molto grande, ok? E il punto più elevato, illuminato con questi candelabri molto alti, illuminava anche tutta Gerusalemme. La Mishnah dice, non c'era un cortile di Gerusalemme che non era illuminato da questa luce. Come? No, non so, la menorah all'interno del Beit HaMikdash consumava un log d'olio alla sì, sera, giusto? Sì, un log. Per cui questo qua per 30, uno per immaginare la proporzione. Sì, sì, sì, molto di più. Un log è mezzo litro. Un log è mezzo litro. Mezzo litro? Sì. Mezzo litro, vero? Sì, un log è mezzo litro. Allora, giriamo la pagina e la Mishnah descrive come avveniva la festa. Hasidim ve'anchei maase, le persone più pie e più note per le loro buone azioni, quindi le persone più rispettate della comunità, hayum meragdim lifnehem, ballavano davanti al popolo. Cioè non è che tu andavi lì a ballare, tu andavi lì ad assistere a come i più grandi chachamim si mettevano a ballare come dei bambini per la gioia della simcha, Beta Shoeva, e ora lo descriveremo. E facevano questo ballo, ba'avukot shel or shebidehen, facendo come i giocolieri con le torce accese di fuoco in mano, buttando e riprendendo, ve'omrim lifnehen divrei shirot v'tishbachot, e dicevano parole di lode e di ringraziamento, di canto e di lode davanti ad HaKadosh Baruch Hu. Ve Halevim, e ora arriviamo allo strumento, alla musica con la quale abbiamo iniziato il capitolo. Ve Halevim, i Leviti, facevano la musica. Questo era uno dei loro compiti all'interno del Beit HaMikdash. Con vari tipi di strumenti che ora la Mishnah dice bikinorot ubinvalim bemitzeltaim bachatzotzrot, strumenti con corde, strumenti senza corde come trombe, cose che sono simili a, come si dice, tamburi, timbali, e biklei shir belom mispar, senza poter contare il numero di strumenti che venivano usati. Dove facevano questo? Dove era il palco? Dove si mettevano i Levim? Al Hamesh Esre Maalot, sui 15 gradini che portavano a Yordot Me'ezrat Israel Ezrat Nashim. Il Bet HaMikdash era fatto in una maniera, visto che è comunque su un monte, allora non può essere tutto piano, perché il Bet HaMikdash è molto profondo, lungo come struttura. Non può essere tutto piano essendo un monte, una collina. Quindi c'è una zona, dei gradini, un'altra zona come terrazzato. Sì. Ok? Allora questa zona grande, Ezrat Nashim, si arriva, si inizia da est, andando verso ovest si arrivano a 15 gradini. Si salgono in 15 gradini, si arriva a un altro luogo che si chiama Ezrat Israel, altri 3 gradini e si arriva a Ezrat Kohanim. Ok? Allora i 15 gradini che vanno da Ezrat Nashim a Ezrat Israel, su questi si mettevano i Levim e diventava questi 15 gradini diventavano il palco dove i Levim suonavano e cantavano. Avete presente che è scritto nei Salmi Shira Malot? Il canto dei gradini significa. Quanti salmi ci sono nel libro di Salmo, che, dei salmi che iniziano con il titolo Shira Malot, il canto dei salmo, dei gradini? 15. Perché era stato composto questo insieme di salmi proprio per i 15 gradini. Ogni gradino corrisponde a un altro canto. E lo trovate nel libro dei salmi al numero 120, dal 120 al 135. Allora, 134. Hanno anche un loro sviluppo concettuale che coinvolge. Sicuramente, sicuramente sì. Sì, certo. Nella successione? Assolutamente sì. Come è chiamato lo spazio delle donne? Ezrat Nashim. Ezrat Nashim. Sì. Al Hamesh Esrema. E che questi 15 gradini sono appunto, dice la Mishnah, che Neged Hamisha Asar Shira Malot corrispondono ai 15 Shira Malot Shebateilim, che sono nel libro dei Salmi. Shealehen Leviim Omdin, e sui stessi appunto gradini i Leviim si mettono, sono posti, Bikleshir, con gli strumenti musicali, Veomerim Shira, e cantano delle canzoni. Questo solamente nella Simchat Beit HaShoeva. Normalmente i Levim facevano questo su i gradini che sono vicini al Mizbeach, all'altare, 3 gradini. Ora, due Kohanim, ve'amdu shnei Kohanim be'shar ha'elyon. Sulla porta che si apre dall'Ezrat Israele, poi ci sono i 15 gradini che scendono. Questa porta si chiama Sha'ar ha'elyon, la porta superiore, perché tu devi salire per arrivarci, e che si chiama anche Sha'ar Nicanor. La porta di Nicanor. Nicanor era il nome di una persona che donò le porte stesse che si trovavano in questa porta, che erano le aveva fatte fare in Alessandria d'Egitto, e c'è tutta una storia nel Talmud riguardo a queste porte, che una fu persa in mare per una tempesta e poi si ritrovò miracolosamente, tutta una storia, che erano in realtà di rame, di ottone, ma dice brillavano così tanto che sembravano d'oro. Ed erano delle grandi porte di rame che erano nominate per la persona che l'aveva donata, che era una persona molto molto benestante, che si chiamava Nicanor, e si chiamava quindi la porta di Nicanor. Lì, accanto alla porta, c'erano due Kohanim, Sheyored Mezrat Israel Ezrat Nashim, accanto a quella porta che scende verso la Ezrat Nashim, Ushtei Chatzotzrot Videhene, avevano in mano due trombe d'oro, e aspettavano il momento in cui segnalare la conclusione delle festività e l'inizio della parata, diciamo così, verso il Shiloach, verso la sorgente. Come indicavano questo? Prima aspettavano che il gallo cantasse. Quindi, Kana Gever, quando il gallo faceva il suo canto e dimostrava che era arrivata l'alba, allora Takeu, Veiriu, Vetakeu. Loro facevano il loro canto con lo shofar, simile a quello dello shofar, ma con... Sì, tutta la notte. Con le trombe, facevano tekia, teruah tekia, come si fa con lo shofar. Higiu le mala sirit. Quindi, scendevano appunto dalla porta, arrivando, facevano questo suono, arrivando poi, scendendo verso, sulla decima, sul decimo gradino, rifacevano di nuovo. Taku veiriu vetaku. Poi, higiu la azara, altri 5 gradini arrivano al piano dell'Azara e di nuovo Taku veri uvitaku di nuovo suonavano. E così continuavano a suonare mentre camminavano tutta la lunghezza della Esrat Nashim fino ad arrivare, come vedremo, alla porta est, quindi l'entrata praticamente del Bet HaMikdash, per uscire da lì. Aiuto Kein veolchin, continuavano a fare il suono allungandolo, le ultime, Ace Magin le Shara Yotzela Mizrach, finché non arrivavano alla porta che dava sul est e usciva da lì. Arrivando alla porta, non uscivano subito, facevano così. Higiu la Shara Yotzela Mizrach, arrivando a quella porta, Hafchu Penem la Marav, tutti coloro che stavano per uscire dal Bet HaMikdash si giravano e si rivoltavano verso l'ovest, e cioè verso il sacro, verso il Kodesh HaKodashim, che era all'estremo ovest del Bet HaMikdash, dove c'era l'arca. E lì dicevano una breve tefilà, dicevano così, Avoteinu, i nostri avi, Sheayuba Makomase, che erano in questo luogo, e poi vediamo a chi si riferisce con questi avi, però una cosa molto interessante. I nostri avi, e qui citano un versetto del profeta Yechezkel, Ezechiele, che dice Achorehem elechal Hashem ufnehem kedma. Davano le spalle al Hechal del Signore, quindi al Kodesh, e al Kodesh HaKodashim, e si voltavano verso est. Kedma vuol dire verso est. Kedem. Vehem amishtachavim kedma l'Hashamesh. E cosa facevano? Dando le spalle al Kodesh, si prostravano davanti al sole, e cioè facevano idolatria. Adoravano, come i popoli di quella zona, il culto del sole e degli astri. Ok? Perché c'erano dei periodi, al tempo, all'epoca del primo Bet HaMikdash, che addirittura si trascurava la funzione del Bet HaMikdash per adorare, essendosi assimilati agli altri popoli della zona, per adorare il culto del sole e degli astri. Cananei, eccetera. No, tu dici Egitto. Anche Egitto. Adoravano. Comunque la zona è quella. Adoravano il tuo... Nel contesto di tutta questa cosa, trovavano spazio per fare questa adorazione? No. Ah. Uscendo dal Bet HaMikdash, loro dicevano, i nostri avi davano le spalle alle Hal e adoravano il sole. Anu, noi, ricordiamoci che questa festa avveniva solo nel secondo Bet HaMikdash, per i motivi storici che ho detto prima. La libagione avveniva sempre, però la festa. Ve Anu, ma noi, le ka einenu, i nostri occhi sono rivolti verso HaKadosh Baruch Hu, e facendo questa affermazione, si girano di nuovo per uscire e per andare. Perché? Perché sta sorgendo il sole. Abbiamo detto che questo avveniva al momento dell'alba, quindi dopo l'alba iniziavano a suonare e il sole sta sorgendo e loro stanno andando verso il sole perché vanno verso est per uscire dal Bet HaMikdash. Sembra che forse qualcuno potrebbe fare un errore e dire e sorge il sole e questi danno le spalle alle Hal e vanno verso il sole. Allora facevano un'affermazione, si giravano, guardavano le Hal e dicevano i nostri avi davano le spalle alle Hal, noi diamo gli occhi alle Hal e non a nessun altro. Però sì, da qua dobbiamo era un modo per dobbiamo uscire, però stiamo andando per fare una mitzvah, non per un altro motivo, era mai un sia. Sottolineiamo. È sempre una cosa gravissima quella che succedeva prima. Assolutamente sì, tutti i profeti ne parlano. Se aprite i profeti parlano tutto sempre. Il tempo perché fate idolatria. Rabbi Yehuda Omer, l'amico di William, Rabbi Yehuda dice, Hayu shonin veomrim, ripetevano questa affermazione dicendo non solamente i nostri occhi sono rivolti verso Hashem, come diceva il primo maestro della Mishnah, ma anche Anu leka uleka inenu. Noi ci rivolgiamo verso Kadosh Baruch Hu e i nostri occhi si rivolgono verso Kadosh Baruch Hu. Cioè non solamente nel cuore, ma anche fisicamente ci giriamo per dare questo tipo di indicazione. C'è qualche nesso quando uno si gira a Shabbat che entra... Questo è un altro concetto. quello è come per accogliere lo Shabbat. Sì, e dico c'è qualche nesso con questa cosa. Non che io sappia. Forse c'è un nesso, ma non ero a conoscenza. Di che ti giri. Sì, sì. Contrario, vabbè, era un modo per congedarsi dalla situazione. Quella. Sì. I salmi di Davide erano prima della costruzione. Certo. Perché c'erano state previste uscire a Malotti, 15... O sono stati... Beh, ci sono due modi di vedere questa cosa. O che in base ai 15 Shira Malot, per questo è stato costruito con 15... no? Oppure in realtà noi sappiamo che David aveva preparato i progetti della costruzione del Bet HaMikdash, anche se gli era stato detto dal profeta, non tu sarai quello che lo costruirà, ma tuo figlio. Ma lui preparò sia i fondi che i progetti per la costruzione del Bet HaMikdash. È probabile. Sì. Allora, procediamo? Ancora una Mishnah. Ok. La Mishnah dice così, visto che abbiamo parlato nella Mishnah precedente degli suoni che si facevano con le trombe simili ai suoni dello shofar, giusto? La Mishnah apre una parentesi su delle indicazioni generali su quando e come avvenivano questi suoni, queste suonate delle trombe d'oro a mano dei coni. Allora la Mishnah dice, En pochatin, non se ne fanno di meno me'esrim ve'achat tekiot ba'mikdash, di 21 suoni all'interno del Bet HaMikdash, tra Tekia e Teruah, che sono i tipi di suoni. Non si fanno meno di 21, ora la Mishnah spiega, e non si fanno più di 48, ven mosifin al-arba'im ve'shmone. Come avviene questa cosa? La base è 21 al giorno, giorno normale ce ne sono 21. Perché 21? La Mishnah dice, Bechol yom, ogni giorno, hayu sham esrim ve'achat tekiot. Vi erano, cioè avvenivano, 21 suoni. Shalosh liptichat shearim, tre suoni al momento dell'apertura mattutina delle porte del Bet HaMikdash, venivano fatti tre suoni, e quindi sono tre. Teisha le tamid shel shachar, con la funzione tamid della mattina venivano 9 suoni, questo nel momento in cui si faceva la libagione di vino che, come vi dicevo, accompagnava tutte le korbanot. Allora, durante questa libagione, i Leviim dicevano il canto del giorno, che noi diciamo ancora oggi, il canto del giorno, e anticipiamo il salmo del giorno con le parole, il salmo che i Leviim dicevano nel Bet HaMikdash è questo, e poi lo diciamo, ed è questo il canto che loro facevano ogni giorno, e però veniva suddiviso il salmo del giorno in tre pezzi, lo suddividevano in tre, e ogni volta, su ogni pezzo facevano gli tre suoni, quindi sono 9 suoni con il tamid della mattina. Quindi 3 più 9. Poi, Teisha le Tamid el Ben Arbaim, altri 9 esattamente secondo lo stesso schema sul Tamid del pomeriggio, prima del tramonto, e quindi 9 più 9 più 3, 21, questo era il minimo, base, ogni giorno almeno 21. Va Musafin, nel giorno in cui c'è anche il Musaf, quindi il Korban, il sacrificio aggiuntivo, per il quale noi oggi facciamo un'altra Amidah di Musaf, come Rosh Chodesh Shabbat, e si aggiungevano altri 9. Hayum Mosifin od Teisha, perché con il Korban Musaf c'era un'altra libagione di vino, e accompagnando questa libagione si facevano altri 9 come per la prima libagione. Ok? Quindi, 30. Aggiungendone, sarebbero 30. Uberev Shabbat, quando era venerdì, se ne facevano altre 6. Hayum Mosifin od Shesh, perché? Non per motivi delle funzioni che avvenivano nel Bet HaMikdash, ma per motivi di rispetto dello Shabbat. Cosa significa? Shalosh le'avtil ha'am mimelacha. La prima volta che facevano tre suoni era per far capire alla gente che, soprattutto quelli che stavano fuori, nei dintorni della città, lavorando nelle aziende agricole e nei campi, che era arrivato il momento di concludere questo lavoro e rientrare nella città, prepararsi per lo Shabbat. Ok? Quindi questo è il primo gruppo di tre. Poi, Shalosh le'avdil ben kodesh lechol. E poi la seconda volta del suono dei tre è per annunciare che è proprio entrato lo Shabbat. Che proprio in questo momento entra lo Shabbat, e questa è la distinzione tra kodesh e chol, tra profano e sacro dello Shabbat. Ok? Quindi se fosse per esempio venerdì, un giorno in cui era anche lo Shkodesh, allora da 30 diventano 36, perché sono 6 in più. Erev Shabbat Shebetoch Echag, se era venerdì all'interno di Sukkot, che Sukkot c'è anche il Musaf, quindi 36 di base c'è, poi è anche venerdì, ok? Quindi appunto sono 36, più si arrivava a 48, perché? E la Mishnah fa tutto il riepilogo. Riepilogo. Shalosh liptichat shearim, 3 per l'apertura delle porte la mattina. Shalosh le shara elyon, 3 sulla porta di Nicanor prima di scendere. Shalosh le shara tachton, 3 quando scendono, come abbiamo detto. Shalosh le milui amaim, 3 per andare verso la sorgente dell'acqua e attingere. Shalosh al gabea misbeach, e poi quando arrivavano verso il misbeach con l'acqua e con le aravot, che abbiamo detto nel capitolo precedente, che portavano i salici da mettere accanto al misbeach, altri 3 suoni, 9 normali per il talmid shel shachar, per la funzione della mattina, 9 altri 9 le tamid shel ben arbaim, per il tamid del pomeriggio, 9 altri 9 per musafin, per il korban musaf, perché essendo Sukkot c'è anche il musaf, Shalosh, ed era venerdì, quindi altri 6, Shalosh le avdil et amin melacha, 3 per annunciare che bisogna cessare il lavoro, e Shalosh le avdil ben kodesh lechol, 3 per annunciare l'inizio dello Shabbat. Tutto insieme sono 48. Giusto? Avete fatto il conto? Facciamo affidarci. C'è una domanda. Sì. Potete. Allora, domanda di William, poi concludiamo, e la prossima volta, se Dio vuole... Ma da qua semplicemente abbiamo anche... Scusate, solo un secondo. La prossima volta è molto importante, perché concludiamo il trattato e facciamo una festa. Allora, domanda di William, sì. Voglio dire, questi giorni qua... Sì. Al Shachar, quando cominciava la prima tekia, sì. Ma c'erano i sacrifici prima o no? La mattina? Sì, facevano no, la funzione inizia con il Tammid Shel Shachar, che è un sacrificio, è una funzione che avviene sull'altare. Sacrificavano gli animali. Certo. E poi facevano quelle cose. Esattamente. Giusto. Andrea? No, concludiamo con Alberto. Sì? La Chatzotzra. La Chatzotzra, ok, Alberto, che è un Levi, deve iniziare a suonare la tromba. Però le trombe le suonavano i Kohanim, non i Levi. Allora no, aspetta.